2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:33 minuti. Benvenuto soprattutto a Fabio Cantadori oggi, che si occupa della parte tecnica, e naturalmente benvenuti a tutti voi che ci state ascoltando in questa nostra nuova puntata. Oggi è il 28 aprile 2012, io sono Enrico Pagliarini, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800 24 00 24. Poi vi ricorderemo tutte le altre modalità, soprattutto vi faremo domande, insomma, anzi aspettiamo le vostre domande sul mondo della navigazione, perché questo mondo si sta trasformando molto velocemente grazie o a causa degli smartphone, ma stanno nascendo servizi innovativi soprattutto sul fronte della pianificazione dei viaggi, dell'ottimizzazione dei viaggi. Parleremo di questo nella seconda parte di 2024. Oggi iniziamo sicuramente con una notizia che diventerà presto un capitolo della storia. Da ieri la coreana Samsung è ufficialmente il più grande produttore di telefonini, di telefoni cellulari al mondo. Dopo 14 anni Nokia perde questa leadership su questo ricco mercato della telefonia mobile, una leadership che aveva conquistato nel 1998 ai danni di Motorola. Dagli Stati Uniti siamo passati alla Finlandia e dalla Finlandia siamo tornati in buona parte negli Stati Uniti. Pensate ad Apple e al mondo Android, al sistema operativo. Ma se guardiamo ai numeri in termini di produzione di telefonini, e quindi non solo di smartphone, Samsung è diventato il numero uno. Quindi cambiano i nomi, cambiano la geografia, sono cose che vi raccontiamo da un po' di tempo, 2024, ma da ieri c'è una certificazione ufficiale. Allora, un po' di numeri per capire di che cosa stiamo parlando. Nei primi tre mesi dell'anno Samsung ha sfornato 93 milioni di telefonini, 93 milioni, pensate, in soli tre mesi, mentre i finlandesi della Nokia si sono fermati, si fa per dire, a 83, quindi Nokia vende ancora tantissimi milioni di telefoni. Se guardiamo al più ricco settore degli smartphone, i numeri sono più contenuti, anche i nomi un po' cambiano, sono numeri sicuramente più interessanti per i produttori, insomma stiamo parlando di prodotti molto più costosi, con marginalità molto più elevate. Samsung guida anche questa classifica con quasi 45 milioni di pezzi, il 30% del mercato, in gran parte grazie alla linea Galaxy, la cui terza serie verrà presentata giovedì 3 maggio a Londra, c'è molta attesa, e grazie anche al sistema operativo Android di Google, perché buona parte del successo dei prodotti di Samsung sono dovuti a questo sistema operativo. Il numero 2 al mondo tra gli smartphone è la Apple, che con 35 milioni di iPhone venduti nei primi tre mesi del 2012 copre un quarto del mercato, circa il 24%. Terza posizione per Nokia con la serie Lumia dei Windows Phone, che nel trimestre ha venduto 12 milioni di pezzi, quindi Nokia sicuramente ha un po' di difficoltà nel rincorrere questi due poli del mercato, Samsung ed Apple, che si fanno concorrenza anche agguerrita, litigano in tribunale sui brevetti e i capitoli da questo punto di vista non sono sicuramente chiusi, ma fanno, e questo non va dimenticato, molti affari assieme, visto che Samsung è il maggiore fornitore di Apple. Per entrambe le aziende gli smartphone, potremmo dire, sono una miniera d'oro, perché buona parte dei loro ricavi arrivano da lì. Pensate che per Samsung la telefonia vale il 73% degli utili, e tutto ciò è certificato anche dalle trimestrali. Ieri è stata comunicata quella di Samsung e martedì quella di Apple. In entrambi i casi stiamo parlando di risultati stellari. Allora, due note sul mondo degli smartphone, sugli ecosistemi iPhone, Android, eccetera eccetera. Allora, pensate che Nokia, ma questa ve la racconto su, così come curiosità, Nokia guadagna di più dalle vendite di iPhone che da quelle di Windows Phone. E voi vi chiederete per quale motivo, perché la Apple ha, diciamo, poi lo ha anche ammesso, copiato qualche brevetto di Nokia, se le due aziende si sono poi accordate, e qualche soldo arriva a Nokia. Allora si vendono talmente tanti iPhone che Nokia guadagna più dalle vendite di iPhone che da quelle di Windows Phone. Stessa cosa succede per Microsoft, che guadagna più da Android che da Windows Phone, perché anche in questo caso i produttori di Android, alcuni con i quali Microsoft si è accordata, pagano alcune royalties a Microsoft. Luca Figino, ha detto delle stupidaggini? Tutto tutto giusto? Tutto perfetto. Tutto perfetto. Allora, quella voce che avete sentito è quella di Luca Figini, che tra poco sentiremo per una breve anticipazione di quello di cui parleremo più tardi a 2024. Allora, nel frattempo si continua a discutere in tutto il mondo di Flashback, che è il nome di un malware, di un virus, che ha attaccato soprattutto in Nord America almeno 600.000 computer Mac, computer della Apple. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma visto che se ne continua a parlare e che alcuni, dopo aver sentito di questo caso, ci hanno scritto e ci domandano: ma il Mac è più sicuro dell'ambiente Windows? Si diceva, è ancora così. Allora facciamo il punto della situazione, facciamo un po' di chiarezza con Alessio Pennasilico, uno dei maggiori esperti di security in Italia, è amministratore delegato di Alba ST ed è membro del CLUSIT, l'Associazione per la Sicurezza Informatica. Alessio, benvenuto a 2024. Buongiorno a tutti. Tu vieni anche definito con un termine molto interessante, pro ethical hacker. Di solito gli hacker, il nome hacker viene associato al crimine informatico, alla pirateria, insomma non a cose positive, anche se in una certa misura affascinanti. In questo caso tu ti occupi invece di divulgazione, di educazione in questo ambito. La parola hacker viene associata a questo, giusto? Sì, infatti il termine negativo purtroppo è utilizzato erroneamente, associato a criminali. In realtà hacker è una persona curiosa che smonta le cose per vedere come funzionano e provare a rimontarle affinché funzionino meglio. E il mio ruolo è esattamente questo, quello del tentare di individuare le vulnerabilità nelle reti delle aziende per poi sistemarle. Sì, c'è chi dice che infatti la parola hacker è una buona parola, andrebbero definiti malicious hacker quelli che invece fanno danni in giro. Alessio, che cosa sta accadendo? Visto che questa notizia sta facendo il giro della rete, se ne parla molto, questo Flashback che sta attaccando migliaia di computer, soprattutto negli Stati Uniti, quindi probabilmente in Europa, in Italia non sono stati avvertiti casi gravi o comunque un numero elevato di casi. Cosa sta accadendo? Ma si è modificato un po' il contesto di riferimento, tale per cui ci sono tantissimi utenti Mac in più rispetto a qualche anno fa, e questo diventa interessante per chi vuole sfruttare questi computer per fare cose redditizie tipo lo spam o il phishing, infettandoli con questo malware. Quindi sì, si cerca di infettarne il maggior numero possibile. Si dice, molti dicono che i Mac siano più sicuri, quindi non siano attaccabili. Questi eventi dimostrano che non è vero tutto ciò? Decisamente. Già qualche anno fa abbiamo avuto dimostrazione, anche se su scala decisamente più piccola, di come anche i Mac possono essere infettati, e chi si occupa di sicurezza da anni lo dice. Esistono delle minacce, sono diverse rispetto a quelle che colpiscono altre piattaforme, ma comunque esistono perfettamente le minacce per Mac e bisogna proteggersi in qualche modo. Quindi diciamo che le contromisure sono le stesse da adottare per altri ambienti? Ma come stavo dicendo, sicuramente alcuni rischi sono mitigati dal tipo di piattaforma, proprio perché un Mac funziona diversamente rispetto a una macchina Linux e rispetto ad una macchina Windows. Alcune minacce esistono, sicuramente alcune misure sono assolutamente identiche, quindi il classico metti un buon antivirus, insomma, vale altrettanto sul Mac per stare più tranquilli. Senti, questo Flashback è una cosa che fa dei danni gravi, irreparabili, o ci mette a rischio nei confronti della rete in generale, perché magari noi veniamo utilizzati, insomma, almeno quelli che hanno un computer di questo genere e soprattutto sono stati infettati, magari vengono messi all'interno di una rete zombie che viene utilizzata per attaccare altri siti. Cos'è questo Flashback? Stai mettendo esattamente il dito nella piaga. Fino a qualche anno fa eravamo abituati a virus che in qualche modo si manifestavano sul nostro computer facendo delle cose, che poteva essere cancello dei file piuttosto che contatto le persone che stanno nella tua rubrica. Negli ultimi anni abbiamo assistito invece a un cambio di paradigma, quindi tutti i malware tipo questo flashback puntano al stare sul computer senza che il possessore se ne accorga, quindi non vengono cancellati i file e salvo che io non lo vada a cercare non mi accorgerò di essere infetto, però contemporaneamente mi fanno entrare a far parte di una rete di computer infetti comandata da qualcun altro che può ordinare a questa rete di computer infetti di fare quel che più riterrà opportuno chi la sta comandando. Quindi diciamo che probabilmente buona parte di questi 600.000 che sono stati infettati non se ne stanno accorgendo. Non se ne stanno accorgendo e anche le azioni di cui vengono incaricati questi computer plausibilmente non sono immediatamente rilevabili dal possessore del computer, perché se io comincio a dire a ogni computer infetto manda 5 mail ogni secondo, la macchina è così potente che il proprietario non se ne accorge, però immagina 5 mail al secondo per 600.000 computer è una discreta quantità di spam che posso spedire in giro per il mondo ed è un'operazione per la quale normalmente chi la organizza viene retribuito in maniera abbastanza lauta. Bene, grazie ad Alessio Penasilico, buon lavoro, a presto Alessio. Grazie. E vi ricordo che Alessio Penasilico sarà con noi il 26 maggio per una puntata dedicata alla sicurezza informatica, al cybercrime, alle minacce che non vediamo in rete, insomma un sacco di cose e poi cercheremo anche di rispondere alle domande degli ascoltatori. Sono le 15:44 minuti, saluto Luca Figini che abbiamo già sentito con la sua voce. Ciao Luca, bentornato a 2024. Ciao Enrico, buongiorno a tutti. Dunque Luca Figini è un collaboratore del Sole 24 Ore, scrive anche su portatili e tablet. Ma poi su una serie di riviste che i nostri ascoltatori conoscono bene perché sono curate con la redazione di Massimo Morandi. Luca Figini si occupa in modo particolare del mondo, possiamo dire, di mobility ormai. Tablet, smartphone e ormai tutto noi siamo, tutto mobility. Oggi ti abbiamo chiamato perché tu stai provando per una prova, un test che poi verrà pubblicato fra quanto? Un paio di settimane? Un paio di settimane su Smartphone Magazine. Perfetto, ti stai occupando di navigatori e oramai parlare di navigatori significa in realtà parlare di app per smartphone o tablet. Principalmente sì, oramai la navigazione è su smartphone. Oddio, non sono morti i PND, cioè i navigatori quelli personali dedicati, con hardware dedicato. Però ti faccio un esempio, nel 2011 di fatti 10 i dispositivi con GPS venduti in tutto il mondo, 7 erano smartphone. E quindi proprio la navigazione, vuoi anche perché lo smartphone è un oggetto che ti porti in tasca e quindi deframmenta un po' tutte le tue attività, sia interne alla casa, all'ufficio, sia esterne. E quindi ormai tutti sono buttati sulle app. Quindi molti navigatori sono integrati agli smartphone. Parleremo di questo, parleremo anche di servizi che immagino in molti casi partano dalla informazione sul traffico per poi proporre un sacco di cose. Servizi per smartphone ce ne sono a bizzeffe, soprattutto per Android e iPhone. Si va appunto dall'infotraffico, ma anche dalla segnalazione degli autovelox, a informazioni georeferenziate, cioè quei software che ti permettono di vedere i punti di interesse, i bar, i ristoranti, gli alberghi, i parcheggi, i distributori nei dintorni, e poi si va alla navigazione nuda e cruda. Vera e propria. E proprio su questo noi poi vi proporremo un approfondimento con altri due ospiti che ci raggiungeranno tra poco sull'ottimizzazione dei percorsi, che è un tema molto affascinante, molto bello e molto innovativo. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità e anche la viabilità. 2024. Riprendiamo, vi ricordo che potete chiamarci al nostro numero verde per le vostre domande, le vostre considerazioni, in modo particolare sul mondo della navigazione, di questi nuovi servizi di cui parleremo tra poco, 800 24 00 24, oppure gli sms al 349 238 6666. Potete utilizzare anche Facebook, tra poco utilizziamo anche Twitter, io e Luca Figini, cercateci sulla nostra pagina Facebook, potete commentare anche attraverso quel canale, oppure anche inviateci una email 2024@radio24.it. La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica per capire come ridurre il costo dell'espansione di internet ad alta velocità, il famoso broadband via fibra ottica. Potrebbe sembrare una questione per pochi addetti ai lavori e la consultazione pubblica probabilmente lo è, ma se pensiamo che tra i lavori da effettuare per stendere fibra ottica l'80% riguarda gli scavi, è evidente che la riduzione del costo di questi progetti è molto facile da raggiungere con un briciolo di intelligenza, soprattutto se la pubblica amministrazione, a partire da quella locale, cioè i comuni, fosse sensibile al tema a costo praticamente zero. Tutte le opere pubbliche, le nuove urbanizzazioni, le ristrutturazioni pensate, dovrebbero prevedere spazio per la fibra. Basta introdurre nei regolamenti comunali questa previsione. I comuni non devono naturalmente mettere fibra, ma lasciare lo spazio ed essere, direi, culturalmente favorevoli ad un operatore che posa fibra. Invece ci arrivano spesso segnalazioni di operatori che ci dicono: ho un sacco di problemi con la pubblica amministrazione che non capisce l'utilità e mi mette mille vincoli. Adesso parliamo di un servizio che è stato lanciato recentemente da Tiscali, che è stato upgradato anche alla versione professionale. Si tratta di un servizio per fare streaming televisivo online che mette a disposizione una piattaforma molto semplice da utilizzare a prezzi che vanno dai 230 ai 790 euro al mese, ma c'è anche la versione gratuita. Allora, ne abbiamo parlato con Luca Scano, che è direttore generale di Tiscali. Aziende, professionisti, associazioni, comunque tutti coloro che hanno la necessità di rivolgersi a una vasta audience possono facilmente, a costi estremamente contenuti, trasmettere sul web un evento, sia in modalità live che in modalità on demand, quindi tenerne traccia sul web, e questo senza sostenere i costi estremamente elevati della TV tradizionale, che molto spesso costituiscono una barriera d'ingresso a questo tipo di soluzioni. Visto che su internet ci sono altre soluzioni per o mettere a disposizione dei contenuti video che possono essere guardati, come si dice, on demand, quindi quando uno vuole, sia che permettono di fare streaming web, a vostro parere qual è la novità, qual è la differenza di Streamago? È un servizio che è praticamente unico attualmente sul mercato, perlomeno sul mercato italiano, sicuramente non sul mercato europeo, non escludo che possano esistere dei servizi in una certa misura simile. Rispetto a altri servizi di larga diffusione sul mercato, c'è la peculiarità, appunto, è quella della messa in onda live. È il numero di canali illimitati che possono essere trasmessi. Il mercato a cui ci rivolgiamo è il mercato di tutte quelle aziende e di associazioni che attualmente hanno la necessità di effettuare dei servizi di diffusione, di comunicazione, di contenuti, e che attualmente non riescono a farlo perché le barriere sia tecnologiche che di prezzo all'ingresso sono estremamente elevate. E questo era Luca Scano, direttore generale di Tiscali. Il servizio si chiama streamago.tv. Stream come lo streaming, quindi è Streamago, un servizio sicuramente interessante. Tiscali io ritengo che sia un'azienda piena di innovazione, ma a volte difficile da comunicare. Ricordo che Soru diceva: gli americani sono bravissimi a comunicare, noi poi finiamo per utilizzare servizi magari lontani migliaia di chilometri per cercare un bar che è a un chilometro di distanza. Allora, questo servizio, come vi dicevo, si chiama streamago.tv, metteremo poi anche un link, visto che c'è anche la versione gratuita. Beh, insomma, basta provarlo per capire di che cosa si tratta. Adesso alcune notizie della settimana. Digital News. Google ha presentato, a proposito di aziende americane, Google Drive, che permette di archiviare in rete gratuitamente fino a 5 GB di file con incrementi a pagamento. Si tratta della più recente risposta sul mercato del backup online, del backup in the cloud, come si dice, risposta a Dropbox. Sul mercato ci sono anche Microsoft SkyDrive, Apple iCloud, Box, Mozi, altri 1000 servizi, ce ne sono tantissimi. Sicuramente il più popolare, quello che noi francamente consigliamo ancora oggi, è Dropbox. Il primo smartphone di RIM con il nuovo sistema operativo BlackBerry 10 dovrebbe essere presentato ufficialmente nel mese di agosto, mentre il lancio sul mercato sarebbe fissato per ottobre 2012. Con l'arrivo del nuovo ambiente software, RIM dovrebbe abbandonare, ahinoi, la tastiera a favore del solo touch. Digital News. Alcune indicazioni interessanti arrivano dal mercato dei tablet negli Stati Uniti. A parte lo strapotere di Apple con il suo iPad, nella parte Android 54 tablet su 100 sono Kindle Fire di Amazon. Il Fire arriverà in autunno anche in Europa. Il fondo F2i italiano è pronto per rilevare la rete in fibra ottica di Genova della multi-utility IREN, 250 km di fibra valutata attorno a 20 milioni di euro. L'operazione verrà effettuata attraverso il veicolo F2i Reti TLC che già controlla MetroWeb. Questa è un'operazione interessante perché molte utility e multi-utility ex municipalizzate del nord Italia vergognosamente tengono fibra spenta, non utilizzandola, nemmeno affittandola ad altri operatori oppure facendo tariffe assurde fuori dal mercato. Questo l'abbiamo già denunciato altre volte, quindi è bene che venga venduta questa fibra ad un operatore che probabilmente, anzi siamo sicuri, la metterà a frutto. Dunque adesso una notizia che arriva da Bruxelles. Il garante europeo per la protezione dei dati personali ha pubblicato un parere molto critico nei confronti del trattato ACTA, il trattato anticontraffazione che al momento è all'esame della Corte di Giustizia europea dopo che la Commissione ha sospeso la procedura di adozione in Europa. Ricorderete, ci sono state molte proteste. Il garante ritiene che ci siano molti aspetti che violerebbero diritti fondamentali dell'individuo e anche il diritto alla privacy. Ricorderete gli acronimi SOPA e PIPA, due contestati progetti di legge americani che, a detta dei critici, avrebbero violato la privacy, la libertà di espressione in rete a favore della lotta un po' troppo libera alla pirateria informatica. Allora ci dobbiamo abituare ad un nuovo acronimo, ovvero il CISPA, scritto CISPA, che sarebbe Cyber Intelligence Sharing and Protection Act, un provvedimento che lascerebbe ampi margini alle agenzie di intelligence e alle aziende per condividere informazioni che potrebbero minacciare la sicurezza degli Stati Uniti. Obama ha minacciato già il veto sulla legge. Tra poco le notizie di GR24, vi ricordo che nella seconda parte del nostro programma di 2024 parleremo di navigazione, di ottimizzazione dei percorsi, di gestione dei veicoli, aspetti molto interessanti, molto affascinanti di un mondo che conosciamo molto bene come quello del GPS, della navigazione, ma che si sta trasformando molto velocemente. 2024. Potete seguirci anche su Twitter, cercate Enrico Pagliarini, poi anche Luca Figini. Federazione, sei su Twitter? No, non sono su Twitter. Tu sei su Twitter? No. Allora, i nostri ospiti che avete sentito in parte come voce. Allora, Luca Figini ve l'abbiamo già presentato, portatili e tablet, collaboratore del Sole 24 Ore anche di 2024. Antonio Perini è fondatore di Via Mente, benvenuto a 2024, anzi bentornato. Buon pomeriggio a tutti. Marco Federzoni di TomTom Business Solution, benvenuto 2024. Marco. Grazie, buongiorno a voi. Parleremo con Luca Figini, Antonio Perini e Marco Federzoni di navigazione, GPS, di ottimizzazione dei percorsi. Effettivamente facciamo fatica, Luca, a dare un nome unico a questo settore che oramai si sta evolvendo, espandendo in mille rivoli. In realtà sta espandendosi un po', ritornando all'origine, nel senso che il GPS nasce sugli smartphone, Windows Mobile, poi con TomTom esce dallo smartphone, diventa un oggetto portatile e poi ritorna allo smartphone in virtù della diffusione. Quindi in effetti è difficile perché poi abbraccia un sacco di funzioni diverse. Dunque possiamo dire, Luca, che oramai la navigazione è quasi una commodity, la si trova in molti posti, e tu ci ricordavi che oramai 7 prodotti con un GPS su 10 sono smartphone. Che cosa troviamo sul mercato? Sostanzialmente app per trasformare lo smartphone in un vero e proprio navigatore, ma anche prodotti con il navigatore già integrato, gratuito, nativo. Allora, sì, sul mercato si trovano chiaramente i PND e gli smartphone. Allora, i PND, ricordiamolo, che sono il classico navigatore portatile, quello che tutti chiamano TomTom, perché esatto, si è affermato per primo, ed è francamente questa è una di quelle cose che diciamo sono arrivati per primi quelli di TomTom, hanno imposto un sistema e tutti per facilità, come quando si diceva il Walkman, poi magari era io avevo un iWa, però si diceva hai un Walkman, è come l'MP3 con l'iPod. Esatto. Dunque ci sono i navigatori portatili personali, quindi con hardware dedicato, e poi ci sono gli smartphone. Diciamo che lo smartphone si divide a questo punto in due categorie, quello col navigatore, col software di navigazione già integrato e col software di navigazione che va acquistato a parte. In linea di massima, l'iPhone non ha navigazione integrata e quindi in ogni caso bisogna acquistare un'app che ha un prezzo che va dai 15 euro ai 100 euro a seconda della cartografia e del tipo di applicazione. Android arriva con un navigatore già integrato che è Google Maps Navigatore e ha anche funzioni di traffico e di istruzioni vocali, però anche in questo caso si possono acquistare delle app o scaricare delle app accessorie. L'unico telefono invece della serie Windows Mobile, Windows Phone, che ha il navigatore gratuito integrato è quello di Nokia, Sony Lumia. Tutti gli altri Windows Phone hanno bisogno di un'applicazione accessoria. Sì, diciamo che Nokia punta molto, visto che Nokia da tempo investe su questo settore, ha acquistato Navtech, dico bene? Qualche anno fa ha acquistato Navtech per 5 miliardi. Quindi ha un know-how interno in azienda, punta molto su questo. Tra l'altro, sbaglio o è l'unico navigatore che può essere utilizzato offline, cioè non collegato alla rete internet? Allora, nella mia personalissima prova che poi verrà pubblicata, in realtà anche per questo motivo il Nokia Drive io lo reputo allo stato attuale il miglior navigatore per smartphone in commercio, perché puoi scegliere di utilizzare le mappe in remoto, quindi sul server, oppure ancora meglio collegandoti a una wifi puoi scaricare le mappe di tutto il mondo, quindi italiane, europee, ma anche di altri paesi, e quindi questa bivalenza lo rende particolare. Cioè puoi utilizzarle mentre guidi? Mentre guidi, sì. Cioè. Non è che devi rimanere sempre attaccato al wifi. No, le scarichi una volta, circa 400 mega per quella italiana, e poi le hai nella memoria del telefonino. Mm. Senti, di fatto possiamo dire che tutti i più importanti produttori di navigatori hanno la loro app per iPhone, Android, eccetera, eccetera. Eh sì, questa è stata una conversione che probabilmente a un certo punto è stata obbligatoria, però è un po' come, passatemi il termine, come correre 100 metri slacciandosi le stringhe delle scarpe, nel senso che nel momento in cui tenti di differenziare l'offerta, poi a un certo punto sei costretto a unificare l'offerta portando tutte le app, quindi TomTom ha la sua app, Garmin ha la sua app, Navigon ha la sua app, iGo anche lui ha la sua app, e quindi tutti i principali produttori di P&D hanno anche l'app per smartphone. Ora, posto che i due dispositivi non sono alternativi, ma molto spesso sono complementari, perché quello che trovi sul P&D, sul navigatore personale, non lo trovi sullo smartphone, e poi è vero che puoi usare lo smartphone anche come navigatore, ma il navigatore ha per esempio dei display che non risentono dei riflessi solari, e quindi... Non sempre, ma spesso. Una cosa che dico spesso quando parliamo di questi temi con amici e colleghi, se arriva una telefonata... Cosa succede? Io sto utilizzando lo smartphone come navigatore? Sbaglio strada? No, il navigatore continua a funzionare, però devi rispondere alla telefonata, quindi quantomeno perdi le mappe. Insomma, se rispondi alla telefonata, esatto. Quindi possiamo dire, poi sentiamo anche il parere degli altri ospiti, che ancora oggi, seppur con mille difficoltà, perché effettivamente lo smartphone noi ce l'abbiamo già, e quindi facilmente scarico un'app, oppure me lo trovo già nativamente integrato, però nonostante questo il navigatore classico è ancora meglio, sia per precisione, per qualità di navigazione, eccetera. Allora, in epoca di vacche magre sì, uno ha lo smartphone e poi fa un investimento marginale, acquista anche il software, però volendo può acquistare un navigatore dedicato, che è sicuramente meglio per tre motivi principali. Innanzitutto ha la staffa. Il nostro smartphone non ha la staffa per essere applicata al parabrezza. Quindi però si può comprare una cosa. Si può comprare, ma lì è già un tutt'uno. Certo. Ha il display che nella maggior parte dei casi non risente dei riflessi e ha prestazioni ottimizzate, quindi il software e l'hardware presente sono ottimizzate per quella funzione, cioè quella di fornire indicazioni stradali, non per una serie di altre funzioni. E questa combinazione di tre elementi lo rende ancora oggi per la navigazione superiore. Dopodiché lo smartphone si presta perfettamente, perché con uno smartphone con un display da 4 pollici in su, con una buona dotazione hardware, riesce a fornire quantomeno le medesime prestazioni. Sì. In questo contesto, naturalmente, i produttori classici di apparecchi per la navigazione stanno guardando ad altri mercati dove si possono fare margini più interessanti, perché oramai i margini che si fanno su i navigatori classici o sulle app da smartphone sono bassi, giusto? Allora, volevo chiedere a Marco Federzone di TomTom, e ripeto la seconda parte, Business Solution, che cosa state cercando di fare? Perché mi pare di capire che ad esempio TomTom, la parte business, e quindi con una serie di nuovi servizi che poi tu ci spiegherai in cosa consistono, questa è una parte alla quale l'azienda sta guardando con molta attenzione, cioè sta diventando quasi più importante. Beh, adesso allora tu tirerai l'acqua al tuo molino, diciamo quasi più importante, non oserei dire questo. Sicuramente l'attenzione è importante a livello europeo. In Italia siamo partiti da poco più di un anno con una struttura, un'organizzazione, ma per andare al punto, che sono i servizi, esatto, noi di cosa ci chiamiamo business solution, ma in realtà, come i nostri ascoltatori non possono vedere, ma ce l'ho qua, abbiamo un navigatore che è in tutto e per tutto simile l'hardware, diciamo, a quello che si può trovare nei punti vendita per il consumer, quindi il classico TomTom, esatto. Ecco, però questi servizi che cosa sono? Questi servizi sono innanzitutto, di citare il traffico, visto che l'ho usato anche per venire qua oggi, che stavo dicendo con Antonio, che se non ce l'avessi avuto sarei stato in panico. Perché davvero? Pensavo di perché non c'era traffico? No, pensavo di non trovare nessuno, ho detto vengo da fuori città in città, dico sono tranquillo, poi tu mi dici sempre vai tranquillo, tanto arriva anche all'ultimo minuto, però... quando ho visto, e quindi mi ha fatto cambiare due strade perché c'era un incidente. Figini confermo, perché anche io arrivo da Lecco, grazie al TomTom ho cambiato strada. Esatto, quindi questa è una delle cose fondamentali. Io dico che è fondamentale non per raggiungere il risultato, ma anche per la tranquillità di chi guida. Perché quando arrivi e ti dice 3 minuti di ritardo, quando ti infili in una coda, diciamo, e non secondo me la parte psicologica è la parte peggiore. Quanto dura? Che cosa faccio? Il nostro sistema ti permette di dire non quanto è lunga la coda, ma quanto dura con buona approssimazione. Quindi se dici 3 minuti stai tranquillo. Se mi avessi detto 15 minuti non hai via di uscita, ti avrei chiamato, almeno dicevo chiamami e faccio la trasmissione al telefono. Quindi ho una soluzione. Questo è uno dei primi nostri servizi. Poi per le aziende, siccome ovviamente ci rivolgiamo alle aziende principalmente, abbiamo la possibilità anche di mandare messaggi, mandare ordini e quindi riduciamo la pericolosità dell'utilizzo sul mezzo, perché ovviamente non tutti proprio noi ci fermiamo a scrivere la via. Sì, sì, poi mi spieghi l'evoluzione di queste cose, però già abbiamo capito il traffico. Poi vogliamo anche capire questo traffico che noi vediamo sul display, come appare, da dove arrivano questi dati, perché è interessante tutto ciò. C'è la viabilità, vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi, per le vostre domande su questo tema che io ripeto molto affascinante, tra l'altro un tema sul quale applicando la fantasia si possono fare migliaia di cose molto belle, molto interessanti. Il numero verde, dicevo, 800 24 00 24. Ci sentiamo tra un minuto. 2024. Stiamo parlando di nuovi servizi per la navigazione. Antonio Perini, che è fondatore di Viamente, voi vi occupate di ottimizzazione, pianificazione dei viaggi. Allora, sempre a proposito di nuovi servizi e di innovazione in questo settore, che cosa fate e soprattutto che cosa la tecnologia ci permette di fare? Sì, in effetti noi offriamo valore aggiunto prima dell'inizio dell'esecuzione del percorso, ovvero nella fase in cui le aziende vogliono pianificare le proprie risorse e quindi cercare di utilizzarle al meglio poi in campo. Siamo abituati a farci guidare da un navigatore da un punto a un altro, ma che cosa succede quando abbiamo tanti indirizzi? Ci chiediamo quale sia la sequenza migliore per visitarli tutti. Se abbiamo addirittura molti veicoli e quindi dobbiamo garantire un servizio presso un numero alto di indirizzi, dobbiamo anche chiederci come assegnarli al meglio e come pianificare, insomma, le risorse in modo ottimo. Quello che noi facciamo è risolvere questo problema, quindi con un servizio web-based, quindi basato su internet, l'utente può semplicemente caricare i propri indirizzi, vederli visualizzati sulla mappa e con la pressione di un singolo pulsante vedere la soluzione, quindi la proposta dei percorsi che noi suggeriamo che i loro autisti facciano. Posso addirittura dire, se devo andare in 10 posti, posso dire però al posto numero 5 ci devo essere alle 13:30. Certamente, le aziende, in particolare chi si occupa di assistenza tecnica, ma anche chi fa trasporto o consegna a domicilio, ha spesso dei vincoli logistici che hanno a che fare con vincoli temporali, quindi fasce orarie, appuntamenti da rispettare, e di conseguenza, certo, noi diamo la possibilità di identificare tutti questi parametri e la nostra soluzione sarà sempre in conformità con tali requisiti. I destinatari di questi servizi sono le grandi aziende o anche il consumatore finale? Se non vorrei fare un salto troppo in avanti. La nostra proposta è dedicata a chi gestisce piccole flotte, quindi da un singolo veicolo fino a 40-50. Attraverso un'interfaccia programmabile, poi la nostra tecnologia è disponibile anche per gli integratori che offrono soluzioni ad aziende più grandi. Tuttavia, sì, in qualche caso abbiamo evidenza di consumatori che provano il servizio, che tra l'altro è disponibile gratuitamente per un periodo di tempo, per organizzare magari un certo numero di commissioni, ed è anche un buon modo per raccontare questo servizio. Immaginiamo di dover andare a prendere il bimbo all'asilo ma dopo le 4, di passare al supermercato, andare a trovare la zia. Ci si chiede come organizzare il proprio giro, o addirittura se si è con la propria moglie o il fratello, ci si cerca di assegnare questi compiti, ed è esattamente il genere di problema logistico che poi le aziende hanno a un livello di complessità più alto. Senti, tu hai detto che questi servizi sono web-based, li posso avere anche sullo smartphone, magari integrati con un navigatore? Diciamo che la fase di pianificazione tipicamente va fatta in ufficio con un bel monitor bello grosso per vedere le mappe, per vedere tanti percorsi e tanti indirizzi. Quando uno è soddisfatto della propria pianificazione, tuttavia, può sempre inviare tramite email i percorsi pianificati ai propri autisti, che lo possono ricevere anche attraverso uno smartphone, per esempio, oppure in forma di file per quei navigatori satellitari, che hanno anche questa grossa differenza che si sta affievolendo man mano con la tecnologia, ma rispetto allo smartphone non hanno connettività terrestre mobile e di conseguenza richiedono di essere connessi a un computer per scaricare i percorsi. Lo smartphone, d'altro canto, invece ha il vantaggio che è connesso chiaramente alla rete cellulare. C'è un ascoltatore che dice: esiste un programma specifico per mezzi pesanti? Non so se che specifici, Federazione dice di sì, ma adesso esiste un grafo stradale, una base cartografica per mezzi pesanti, che dice lì non puoi passare perché quella è una via cittadina. Al posto di selezionare quei percorsi deve per forza scegliere strade alternative perché sono vietate ai mezzi pesanti. Federazione che diceva sì, fondamentalmente Antonio ha fatto più tecnico, noi alla fine diamo il risultato finale e abbiamo delle mappe che sono interfacciate con questi grafi e che inserendo numero di assi, peso, altezza e larghezza del mezzo, quindi non mezzi pesanti, potrebbero essere anche dei furgoni. O magari dei camper, visto che andiamo anche al consumer, quindi potrebbero essere anche dei camper, e a quel punto il sistema analizza le strade e non fa passare sotto un ponte più basso dell'altezza del tuo mezzo. Sì. Poi parliamo anche di prezzi, perché vorrei capire questi servizi grosso modo quanto costano. Luca. No, volevo aggiungere solo che chi produce la cartografia, quindi Teleatro, Sonaftec, di solito nei segmenti, si chiamano, quindi nelle porzioni di strade della cartografia, inserisce i dati relativi al peso supportato, all'altezza, quindi alla pressione sul suolo. Questi dati di solito non vengono utilizzati sui navigatori, diciamo, consumer, ma sono presenti nei navigatori della serie truck, quindi quelli per i camion, eccetera. Quindi comprando un navigatore di quel tipo si hanno anche queste informazioni che di solito non si trovano nelle versioni consumer. Sì. A proposito di versioni consumer, quelle destinate al consumatore finale per uso, tempo libero, vacanza, insomma viaggi di tutti i giorni, volevo chiederti, Luca, ma ha ancora senso perdere tempo per scegliere un prodotto piuttosto che un altro? Questi prodotti non sono poi alla fine molto simili, cioè quasi tutti ti portano più o meno in modo abbastanza preciso da A a B, da via Garibaldi a Viale Italia. Allora, diciamo, la funzione di base, il core business da A a B è per passare il termine, banale, nel senso che lo fanno più o meno tutti. Il problema è come lo fanno, ovviamente, nel senso che la funzione da A a B è la funzione di base di un navigatore. Io voglio arrivare a una destinazione, il navigatore mi fa arrivare, poi il giro che mi fa compiere, e quindi l'ottimizzazione delle strade, la scelta delle strade, la presenza delle informazioni sul traffico, sugli autovelox, una serie di informazioni che mi fornisce durante la navigazione. Questo dipende dal marco e dal brand del navigatore. Quindi dici: a destinazione ci arrivo, problema è non arrivarci dopo 8 ore. Quanto ci impieghi e con che qualità ci arrivi. Sì, sì. E secondo la tua classifica, o comunque la tua analisi, visto che tu stai provando un po' tutto, quali sono i brand da tenere in considerazione? I due brand sulla parte, dispositivi personali, i due brand più famosi, che sono quelli che si contendono nel mercato, con TomTom e Garmin, sono i due che spiccano sugli altri anche per servizi corollari come appunto il traffico piuttosto che i servizi connessi che ti permettono di scaricare dalla rete cellulare dei dati e quindi di essere sempre aggiornato. Ma anche i prodotti di MioTech non vanno affatto male. Sì. Sul fronte dello smartphone, ho già citato Nokia Drive. Che ha anche il traffico? Che in questo momento non ha il traffico. Il traffico però ce l'ha Google Maps navigatore, anche se non ha un traffico interattivo. Cioè sulla mappa mi mostra in giallo, verde, rosso la viabilità, ma poi non è interattiva la strada. Comunque tu sai che lì troverai il rosso, quindi verosimilmente troverai un blocco stradale, ma non puoi evitarlo a meno che tu non sei a tua... Cioè per interattiva intendi che il sistema non ti fornisce delle soluzioni alternative? Non ti ricalcola la strada quando rileva che ci può essere un blocco, cosa che fanno di default, quindi in automatico, i navigatori dedicati e che fanno i software derivati da navigatori dedicati, quindi di TomTom, Garmin, iGo, eccetera. Sì. Senti, spesso gli ascoltatori, quando parliamo di questo tema, citano un navigatore che io ho utilizzato parecchie volte, che mi piace molto anche un po' come idea, però volevo sentire il tuo parere, magari anche quello degli altri ospiti, che è Waze, è scritto con la Waze. È un prodotto gratuito, si può utilizzare gratuitamente, devo dire che mi sembra che ti dia delle soluzioni abbastanza buone. Considerando anche che è gratuito. A me piace molto, è un'app sì, ormai per quasi tutti gli smartphone, si scarica gratuitamente e si basa sulla community, quindi è un navigatore sociale. Perché? Perché le mappe, la cartografia viene prodotta dall'utilizzo del software stesso. Funziona bene soprattutto in America, negli Stati Uniti, in Europa. In Italia purtroppo la copertura è ancora un po' a macchia di leopardo, quindi a Milano funziona bene, nella periferia magari può avere qualche buco. Secondo me il concetto è molto interessante, perché e potrebbe anche essere... Spieghiamo come funziona, che è interessante. Funziona che tu lo installi e mentre vai lui rileva dei dati, chiaramente in forma anonima, e la community, quindi la comunità che contribuisce a utilizzare il navigatore, produce la cartografia fondamentalmente, e quindi il miglioramento della cartografia dipende dalla quantità di utenti che abbracciano il sistema, quindi Waze. E potrebbe essere un sistema per assurdo anche copiato, mutuato dai grandi produttori. Un tentativo l'ha fatto TomTom con MapShare, quindi è l'utente che indica quando magari una strada è stata cambiata o quando c'è un senso unico posto diversamente, eccetera. Però il fatto di permettere agli utenti che scaricano un'applicazione anche a pagamento di aiutare a migliorare la cartografia è una soluzione, ed è la soluzione, perché in realtà per quanto funzioni bene il GPS, il vero limite è sulle mappe, perché le mappe devono essere aggiornate attraverso un procedimento abbastanza complesso, e quindi un metodo per tenere sempre aggiornate è quello di farsi aiutare dalla community. Marco Federzoni di TomTom, diceva Figini che anche voi, come altri produttori, state facendo questo, integrandolo con tutta una serie di altre cose per far sì che la indicazione sia la più precisa possibile. Beh, il concetto di community è fondamentale, concordo perfettamente. MapShare è una delle soluzioni, anche il traffico, ci sono altre soluzioni che presentano il traffico. Noi abbiamo un traffico interattivo proprio perché tutti i nostri sistemi, che per collegarmi a quanto aveva detto anche Antonio prima, sono connessi perché hanno una SIM all'interno e quindi ricevono e trasmettono dati in tempo reale. Quindi questi dati che noi trasmettiamo in tempo reale vengono macinati da un server, sono tanti i dati, per rimanere sul generico, e vengono poi ritrasferiti e aggiornati ogni 2 minuti al sito. Quindi anche noi diamo un'interfaccia gratuita su web, che è www.tomtom.com/live-traffic, per cui si può averlo in modalità gratuita da casa o da anche uno smartphone, se si può essere quindi collegati. Quelli sono gli stessi dati che però vengono trasferiti anche direttamente sul TomTom. E quindi però il vantaggio di averli trasferiti sul TomTom è che il nostro servizio è interattivo, quindi quando c'è quando ti trovi in una zona molto trafficata o c'è un incidente, il nostro servizio, visto che di questo stiamo parlando, è di dare un'alternativa. Attenzione, non sempre un'alternativa è plausibile, perché noi ti diamo un'alternativa quando il tempo di percorrenza è inferiore a quello della coda, perché se io ti do un'alternativa di 10 km su una strada di montagna invece che farne 3 in coda, forse quello che diciamo noi, magari in modo un po' più asciutto, è stai lì, fatti due telefonate che ti conviene, ecco. Senti, mi fai un esempio di che cosa si può fare, che ne so, magari un'azienda che ha 15 furgoni che fanno consegne, oppure operatori idraulici, cose insomma del genere, che tipo di miglioramenti possono registrare, verificare utilizzando servizi di cui stiamo parlando, quindi che ti consigliano le strade alternative, ti fanno una pianificazione perché poi i vostri servizi si integrano con quelli di Viamente, come corretto, si possono utilizzare. Assolutamente. Ecco, allora, però, scendendo nel pratico, io che ho un'azienda, oppure io che sono un professionista anche solo da solo, che tipo di vantaggi posso avere? Beh, i vantaggi, quello che dico sempre ai miei venditori è chiedete, fate le domande prima di dare le risposte, perché è importante, ogni azienda ha le sue peculiarità, però. Diciamo che in linea generale ti faccio io una domanda, dei tuoi 15 mezzi, tu non avendo il nostro sistema, mi sai dire dove sono tutti in questo momento? No. No, cioè telefono ai... bravissimo, ecco, è questa la vera risposta, bravissimo. Telefono a tutti e quindi comincio già a spendere, facciamo anche che abbiamo una RAM aziendale, non spendo niente, ma spendo del tempo, che anche questo è denaro. Allora, innanzitutto so tutti dove sono. Loro hanno il nostro sistema a bordo, quindi diciamo che hanno ottimizzato la strada, hanno risparmiato percorsi, non vanno a perdersi e quindi aumentare la strada, diminuiscono quindi anche il CO2, quindi cerchiamo di essere anche, puntiamo anche a un'azienda verde, che è importante anche questo. In più, se qualcuno mi chiama e devo fare una consegna urgente in via Garibaldi, so immediatamente, so da sede qual è il mezzo più vicino, se è occupato, se sta facendo un altro servizio, se è libero. A questo punto dal mio PC posso mandargli un messaggio con un ordine, vai a fare la consegna in via Garibaldi al 15, e lui non deve fare nient'altro che accettare, quindi non scrive, il messaggio viene letto ad alta voce, quindi anche questo per questioni di sicurezza nella guida non deve leggere il messaggio, gli viene letto ad alta voce, vai a fare una consegna di X in via Garibaldi al 15, lui accetta, io vedo che ha accettato, il navigatore automaticamente lo guida in via Garibaldi al 15. Senti, posso anche scoprire se qualcuno tiene acceso il motore mentre sta al bar a prendere un caffè? Dipende dal tipo di strumento che usi, abbiamo vari strumenti. Sì, abbiamo uno strumento che chiamiamo il Link, è appena uscito il nuovo modello, tra parentesi, il 510, dove si può interfacciare con il motore, sappiamo motore acceso, motore spento, ma, perché questo è molto importante per l'azienda, ma teniamo anche alla privacy di chi lo utilizza. E quindi c'è in tutti i nostri sistemi un pulsante che è digitale, quindi si può puoi nascondere, diciamo così. Però certo, se un autista tutti i giorni si nasconde dalle 12 alle 14, io mi comincio a preoccupare. Abbiamo casi in cui insomma la pausa pranzo e poi il weekend. Certo. Ci fermiamo per un paio di minuti, c'è la pubblicità, vi ricordo il nostro numero verde per intervenire, tra poco sentiremo anche alcuni nostri ascoltatori, 800 24 0024, a tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, sono le 16:37 minuti, il nostro numero verde 800 24 0024, sentiamo Aligi che ci telefona da Bergamo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Enrico, buongiorno. Prego. È veramente un piacere, che sono in viaggio verso Varazze per trovare la mia famiglia. Io di solito uso Waze perché non giro per lavoro e quindi quando ho possibilità di prendere sulla macchina e devo usare il navigatore, uso questo navigatore che è molto comodo. Però oggi dovevo entrare a Seriate e quindi seguo Waze, mi porta diciamo verso l'autostrada. A un certo punto su una via un po' strana ho detto bene, mi sta portando su una via nuova. A un certo punto invece mi trovo su una via di servizio, quindi un accesso all'autostrada attraverso una via di servizio. Quindi tu dici, quindi è gratuito, però ha anche dei limiti. Sì. Senti, tu utilizzi questo Waze anche con le cose un po' più evolute, perché con Waze puoi diciamo partecipare alla community, segnalare cose. Io ogni tanto provandolo mi dice c'è la polizia fra un chilometro e qualcuno ha segnalato alla community che c'è la polizia, quindi il sistema lo segnala. Sì, mi è successo un paio di volte, magari quando ero fermo in colonna mi chiedeva come mai ti sei fermato, per caso c'è della colonna, allora segnalavo se c'è la colonna oppure no. Sì, sì, è molto interattivo. Quindi da questo punto di vista è comunque un approccio interessante. Certo, poi è gratuito. Hai provato altre cose? No, perché c'è l'uso raramente, quindi per quello che mi serve, diciamo, questo... Più o meno va bene. Sì, perfetto. Comunque oggi sei entrato dalla parte giusta dell'autostrada, poi. Sì, se c'è un divieto non si può passare, però ormai sono qui. Te ne sei accorto. 20 metri, sì. Bene, grazie di aver chiamato e buon viaggio. Grazie, a presto, buon viaggio. Dunque, Luca, vabbè, questi sono i problemi che ci possono essere proprio per i motivi che dicevamo prima, cioè la community, cioè il numero di persone che utilizzano questo servizio, Waze in particolare, è ancora basso e quindi i dati che loro possono raccogliere sono ancora poco precisi. Sì, la copertura non è completa delle strade, come ha descritto l'ascoltatore. Questo mi permette anche di dire una cosa, nel senso che il navigatore è un supporto alla guida, non è al volante. Quindi sempre gli occhi ben puntati davanti a vedere dove ci manda, anche perché il navigatore funziona su mappe statiche, cioè sono dati raccolti da esperti attraverso cartine, ma che risiedono in maniera statica sul navigatore, cioè sono memorizzate nella memoria, non vengono prodotti in tempo reale alla stile supercar mentre si va, e quindi potrebbero esserci anche degli errori, quindi attenzione bene dove si va e che indicazioni dà il navigatore. Chiarissimo. Federzoni, come fate a raccogliere i dati del traffico, che è un aspetto interessante? I dati del traffico sono raccolti abbiamo varie fonti, ovviamente. La prima fonte e la più sicura sono i nostri navigatori, ovviamente, perché abbiamo il sistema è in connesso, specialmente per tutti quelli business, ovviamente, e quindi il dato viene trasferito. Ogni 10 secondi viene aggiornato il dato della posizione del navigatore. Abbiamo più di 180.000 di questi dispositivi sul territorio europeo, e quindi questo è un dato preciso. Oltre a questi, che sono quindi dati... Quindi tu dici, se su una strada noi vediamo nelle nostre mappe che ci sono 100 navigatori che stanno andando a 30 all'ora... Non è così semplice. Ah. Bisogna mettergli prima un dato storico, cioè da Soncino a Linate... Il lunedì mattina con pioggia, quindi inseriamo il tempo atmosferico, l'orario del giorno e il giorno della settimana, e facciamo uno storico trimestrale tutti i giorni. Quello è il dato di benchmark, non è una parolaccia, ma la puoi dire. Di riferimento. Di riferimento, ok. A quel punto abbiamo anche tutto il dato su quel percorso, le velocità medie, le velocità istantanee in quel dato punto, e se c'è una variazione rispetto a quel dato storico, allora cominciamo a fare le domande al nostro server, e il server cerca di interpretare incidente, coda per lavori. Abbiamo anche la segnalazione dei lavori, quindi se ci sono dei lavori non segnaliamo necessariamente coda, ma dei possibili problemi, ed è per questo che il lavoro che viene fatto anche da aziende come Waze, che come dicevo prima è assolutamente interessante, però è un lavoro molto molto grosso, e noi ci dedichiamo un sacco di personale e tempo. Un'altra fonte interessante di dati sono i telefonini cellulari. I telefonini, certo, abbiamo accordi anche con società telefoniche più importante con Vodafone. Prima un ascoltatore ci faceva una domanda su Vodafone, questo. Sì, tra parentesi, le SIM che sono presenti nei nostri navigatori e nei nostri sistemi sono Vodafone a livello europeo. Questi dati vengono forniti ovviamente in modo totalmente privato, quindi non sappiamo qual è il telefonino, sappiamo che c'è un certo numero di telefonini, e per lo stesso concetto che spiegavi tu prima, se c'è un certo numero di telefonini sull'autostrada che va a una certa velocità e tutto d'un tratto si ferma, abbiamo un dato. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? Volevo dire che è un lavoro enorme, anche perché il vero pericolo di questo approccio è il falso positivo. Ovvero il fatto che magari si va un po' più lenti perché in quel momento si fa più lenti, non c'è un vero problema e viene segnalato un problema. Quindi tutto il lavoro principale è quello dell'affidabilità dell'informazione, se c'è traffico o meno. Chiarissimo. Antonio, la vostra società Viamente nasce dalla matematica. Quindi questo lo dico perché noi abbiamo capito che per fare tutto ciò, cioè servizi che apparentemente sembrano molto semplici, il grado di complicazione è molto elevato. Sì, in effetti il numero di variabili è tale che richiede lo sviluppo di algoritmi matematici specifici e nel nostro caso in effetti gran parte del servizio è sostanzialmente computazione algoritmica sulla base di database cartografici. Ti faccio un esempio, per visitare 10 indirizzi ci sono tante soluzioni possibili, A, B, C, D oppure A, D, B, E, eccetera, no? Queste soluzioni sono un numero superiore a 300.000 per 10 indirizzi, per 11 indirizzi sono più di 3 milioni, di conseguenza il numero di soluzioni possibili esplode, chiaramente sto considerando anche quelle più assurde. Certo. Però la matematica... Come per il superenalotto, 666666, però... Di conseguenza le performance di un algoritmo si distinguono in base alla velocità di convergenza, quindi quanto rapidamente riesce a identificare una soluzione che sia un cosiddetto subottimo, dice questa branca della matematica che si occupa di ottimizzazioni, e lo fa tra un numero veramente enorme di possibili soluzioni. Poi ti faccio una domanda sul mercato, perché la vostra è una startup in un mercato che mi pare di capire sia molto interessante e in fase di esplosione, poi mi dirai tu sì o no fra un minuto. Adesso sentiamo Andrea che ci chiama da Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno, innanzitutto grazie dell'utile servizio. Io ero interessato a dei ragguagli che mi indichino quale strumento possa fare più a caso mio per ottenere la massima miglior precisione rispetto all'indicazione della latitudine e longitudine secondo il parametro di Greenwich oppure quello italiano, perché sappiamo che a Roma esiste un indicatore che si differenzia la posizione rispetto a quello di Greenwich. Ecco, con una fedeltà territoriale avere un riscontro dell'esatto posizionamento in qualunque luogo si possa trovare, no, di latitudine e longitudine. Penso che possa essere effettuato questo non solo in dipendenza dell'utilizzo satellitare, ma anche rispetto, se ci fosse, diciamo, un preciso punto in un luogo rispetto alla distanza, rispetto ai ripetitori da quel luogo stesso, possa essere conseguentemente indicata l'esatta sì, precisione, come dicevo. Ecco, c'è uno strumento, ci sono dei modelli che possono offrire questo. Adesso chiediamo ai nostri ospiti, mi tolgo una curiosità, per far che cosa? Per infilare una palla in un buco? No, ma anche per avere, diciamo, il senso delle dimensioni e poi per... promuovere un'iniziativa di coordinamento operativo di modo che ogni partecipante abbia questo esatto preciso riferimento della propria ubicazione rispetto e conseguentemente quella di ogni altro partecipante a livello territoriale, nazionale, ma anche italiano, europeo, eccetera. Vabbè, un po' di curiosità mi rimane perché non capisco cosa vuol fare, però è interessante il punto. Sono le 16:47 minuti, ci fermiamo per un minuto, poi ritorniamo. 2024. Le 16:49 minuti, questo è 2024, una risposta flash al nostro ascoltatore di prima. Allora, posto che esistono servizi sia per il GPS sia per il futuro Galileo di livello diverso, quello consumer è un po' meno preciso, quello business è un po' più preciso, quello per gli aerei è ancora più preciso, quello militare è precisissimo, ti infilano un missile nella finestra, infatti gli israeliani quando devono colpire qualcuno alla striscia di Gaza non sbagliano mai. Non arriviamo a questo punto, esatto, in 15 secondi abbiamo una soluzione, non so la soluzione a cui pensava il nostro ascoltatore. Noi abbiamo una soluzione per esempio per tutti coloro che le strade le costruiscono, quindi ci dicono ma io non ho una via, non ce l'abbiamo la via, ci devi dare un punto. Allora dalla nostra cartografia possiamo identificare il punto, automaticamente il sistema identifica cliccandoci sopra una longitudine e una latitudine, inviamo il famoso messaggio, sul navigatore appare non una via ma una long lat e accettando il navigatore ti porta in quel punto, se poi non c'è una strada e un camion ci puoi arrivare, quindi è una soluzione ad oggi. Esatto, in quel caso esiste. Antonio, volevi rispondere? Se no io ho una domanda. No, senz'altro un problema, quello della localizzazione precisa di un punto su una mappa, anche per chi effettivamente utilizza dei veicoli, perché è un processo delicato quello di matching tra un indirizzo, una stringa che quindi raramente ha un formato univoco, e invece un punto che è univocamente definito da latitudine e longitudine. Sì, ho pensato anche io ad una caccia al tesoro, perché ci sono quelli che fanno le cacce al tesoro con i navigatori, e infatti un SMS dice guardate che quello è uno che vuole fare la caccia al tesoro. Vabbè, però io ne ho parlato 7-8 anni fa, Figini, però non abbiamo tempo adesso. Lo so che tu freni per dire una cosa, però volevo chiedere ad Antonio Perini, ovviamente è una startup, questo è un mercato che secondo me sta per esplodere, però volevo capire le aziende quanto hanno ancora capito, perché io domattina lo farei subito, diciamo, utilizzerei subito servizi di questo genere, perché i vantaggi sono incredibili: risparmio carburante, risparmio tempo, pianifico le visite, eccetera eccetera. Sì, in effetti dici bene, noi abbiamo un prodotto sul web da 18 mesi, oggi serviamo qualche migliaio di veicoli, la maggior parte di questi sono sul territorio nordamericano. Forse legato questa segmentazione è legata al fatto che il nostro servizio è disponibile sul web e di conseguenza magari gli americani sono più abituati a cercare soluzioni di questo genere sul web, ma è anche vero che il numero di ricerche di soluzioni come queste su internet sta crescendo giorno dopo giorno, un po' probabilmente legato al costo del carburante che quindi incide sulle operazioni delle aziende, un po' legato anche alla complessità organizzativa. In effetti i benefici di usare Viamente sono almeno due: l'automazione da una parte, non c'è più bisogno di qualcuno che manualmente cerca di costruire le pianificazioni, e dall'altra l'enorme efficienza generata. Allora noi vediamo, guardando le chiavi di ricerca che conducono i visitatori nel nostro sito, che alcuni vengono perché hanno bisogno di automatizzare, perché vogliono appunto saltare questo step che a volte richiede anche delle ore in azienda per fare delle pianificazioni sensate. Dall'altra parte però cerchiamo soluzioni appunto per sopravvivere ai rincari del carburante. Sì, sì. Sentiamo velocemente Massimo da Roma. Buongiorno Massimo, abbiamo un tifoso. Buongiorno. Un tifoso di Waze. Sì, io sono un tifoso di Waze, ho usato vari navigatori, devo dire per la verità all'inizio ero molto scettico sui navigatori perché ho un buon senso dell'orientamento. Però da quando uso Waze praticamente mi trovo molto bene, e il concetto, per esempio, il problema che diceva il signore all'inizio, Waze ti dà la possibilità di segnalare che c'è stato un errore e viene risolto nel giro di qualche giorno, viene risolto. Io lo uso anche in maniera interattiva, cioè segnalo se c'è un incidente oppure ricevo dei segnali facendo parte di alcuni gruppi che fanno normalmente la mia strada. So per esempio se posso passare su quella strada oppure c'è traffico, sì, o altro. Sì, chiarissimo. Certamente. È interessante il discorso della socialità. Sì. È molto interessante. Grazie Massimo per averci chiamato. Effettivamente questo lo ribadiamo, è sicuramente un aspetto molto interessante. Certo è che per business uno deve essere sicuro, quindi i servizi di cui abbiamo parlato garantiscono un'affidabilità non al 100%, perché ogni tanto qualcuno sbaglia, però molto elevata. Un flash, allora, i servizi di Viamente costano circa 16 euro al mese, così diamo un ordine di idee. Una soluzione di TomTom Business Solution per gestire flotte, eccetera, eccetera, ci puoi, sì, dare un'idea? Intorno all'euro al giorno, tanto per avere i meno di 30 euro al mese. Quindi stiamo parlando di prezzi popolari, insomma. Beh, sì, calcolando i risparmi, non bisogna guardare al costo, ma l'investimento. Chiaro. E quanto risparmi sia con Viamente che con TomTom. Chiarissimo, chiarissimo. Luca Figini, per concludere, tu volevi dire qualcosa? Volevo dare una risposta all'ascoltatore. Bravissimo. Che semplicemente per fare la caccia al tesoro, il geotagging, quello che dovrà fare, di scegliere un navigatore di quelli per outdoor, purché abbia bussola elettronica, perché la bussola elettronica dà una fidabilità migliore rispetto al GPS solo da solo. Bene, grazie a Luca Figini. Dove pubblicherai questa analisi che tu stai facendo dei navigatori? Sarà pubblicata sul prossimo numero di Smartphone Magazine, che è in edicola fra un paio di settimane. In edicola adesso abbiamo Cellulare Magazine. Molto bene, grazie a Luca Figini che collabora con 2024, Il Sole 24 Ore, e con Cellulare Magazine, anche portatili e tablet. Grazie ad Antonio Perini, fondatore di Viamente. In bocca al lupo per la startup, a presto, buon lavoro. Grazie. E anche grazie a Marco Federzone di TomTom Business Solution. A presto Marco, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie come sempre a tutti i nostri ascoltatori, a Fabio Cantadori che si è occupato della parte tecnica. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24. 2024.